Sconvocati di Giovanni Capuano. Claudia Schiattone è autrice di questa puntata 800240024 in questo mese di luglio, che ci regala anche il nuovo corso della Nazionale Italiana. Sono le ore in cui si passa da Antonio Conte a Giampiero Ventura. L'obiettivo poi a settembre essere subito competitivi. È un salto nel vuoto? No, è però un salto difficile con un'eredità complicata da raccogliere, quella di Conte e di un ottimo europeo. Saluto Enzo Bucchioni, collega, ciao Enzo. Ciao a tutti, ben ritrovati. Non è un salto nel vuoto, anche se l'eredità di Conte, soprattutto dopo l'ottimo europeo che abbiamo fatto in Francia, è un'eredità complicata. Non è un salto nel vuoto, ma possiamo definirlo un triplo salto carpiato, forse uno dei più difficili che si possano fare. Di sicuro sostituire Conte sarebbe stato complicato per qualsiasi allenatore, lo è secondo me ancora di più per Ventura, che nessuno ce l'ha con Ventura, io me ne guardo bene, fra l'altro è un signore della panchina, se possiamo definirlo così, però non ha esperienza a livello internazionale, non ha mai allenato grandi squadre, non è mai stato un grande giocatore, non ha secondo me nulla, niente di quelle caratteristiche che hanno un pochino contraddistinto gli allenatori della nazionale fino a questo momento. O prendevi il più bravo del momento come Conte, o prendevi uno della scuola di Coverciano come poteva essere Berzot, è questo che, o prendevi, che però oggi non c'è, che in questo momento sì, non c'è, esatto, o prendevi un grande giocatore come Donadoni, che è stato fatto CT giovane, però è stato un grande giocatore. Ventura, se mi consenti, potrebbero anche dirti all'estero, ma chi è? E avrebbero ragione, e qui la nazionale italiana mette in panchina il signor Ventura, che è sconosciuto ai più. Ecco, questo, come dicevi tu, ti dà l'idea cos'è oggi il calcio italiano. Hanno recitato, quelli più importanti hanno recitato, perché un po' perché c'è Tavecchia la guida, e sappiamo, mi fermo lì, un po' perché il nostro calcio in questo momento ha dei limiti enormi e rischi di fare una figura. Capello l'ha detto chiaramente, ma questa nazionale rischia di non andare ai mondiali in Russia nel 2018, e io, che sono Capello, ho una storia, mi voglio bruciare per non... perché? Per cosa? Poi fra l'altro la nazionale che non può neanche... Sì, anche se l'europeo racconta che in realtà poi con coraggio si può prendere una sfida. L'Italia ci andava con tanti infortunati, con un punto di partenza bassissimo, ed è uscita a testa altissima. Sì, questo è vero, però ci vogliono degli uomini, ci vuole un CT che ami le sfide. Conte è uno di questi, Ventura di sfide le ha fatte, le sue sfide le ha fatte, ma le ha fatte a livello inferiore, le ha fatte con il Bari, le ha fatte con il Pisa, con il Torino più che una sfida, qualche certezza in più l'ha avuta, e non so se Ventura è pronto per una grande sfida. Poi c'è chi non se la sente, io ho citato Capello per dirti di uno che è già arrivato, è più difficile fare una sfida, rimboccarsi le maniche, bisogna averne voglia, bisogna avere coraggio, bisogna, e forse in questo momento qualcuno non se la sente, ecco, di avere queste caratteristiche o di mettersi in gioco per la nazionale. E tutto questo mi fa molto dubitare, augurando naturalmente a Ventura di fare meglio di Lippi, di Conte, di tutti, di vincere il mondiale nel 2018. Insomma, mi sembra molto molto complicato anche arrivarci, devo dire la verità. Sarà difficile col profilo che ha Ventura, che ripeto, e lo stiamo dicendo, è certamente un professionista stimato, un professionista anche apprezzato per il suo profilo, ma un professionista che non ha un curriculum di altissimo livello. Sarà difficile anche avere un peso specifico importante nella dialettica con i club, cose in cui hanno fatto fatica Conte e praticamente tutti gli altri predecessori. Di sicuro, questa è una complicazione che hanno avuto tutti i CT, in più Conte avrà altre, cioè Ventura avrà altri problemi, ma anche di rapporti con i giocatori. Sai, i giocatori li conosciamo bene, Conte era carismatico, cioè, ha fatto presto a coagulare tutte le teste dei giocatori, a fargli capire qual era l'obiettivo, a convincerli, appunto perché lui è un uomo di grande personalità. Ha fatto la sua storia, per ora, la sua carriera, l'ha costruita con questo. Ventura mi sembra più un uomo di campo, e qui torniamo anche al discorso con la nazionale, non hai il tempo per lavorare. Se Ventura è solo un uomo di campo, anche lì come farà a esprimere le sue qualità? Come c'è il vantaggio che si parte dal 3-5-2. Sì, questo è vero, però un 3-5-2 che si è mosso con la testa, si è mosso con una grande sintonia mentale, e davanti c'era questo grande condottiero che ha legato tutti i giocatori a sé e li ha trascinati verso un obiettivo che sembrava impossibile, anche se è un obiettivo mediocre, però insomma qualcosa ha fatto questa nazionale, è andata oltre i suoi limiti di sicuro. Ecco, andare oltre i suoi limiti ci può riuscire una volta, ci riuscirà una seconda volta un secondo allenatore capace di portare un gruppo oltre i suoi limiti. Ecco, sinceramente, analizzando la storia di Ventura e conoscendo un po' il clima della nazionale, mi sembra estremamente complicato. Ripeto, a me Ventura sta simpatico, spero assolutamente di sbagliare, però io avrei fatto qualche altra scelta. Allora a quel punto lì metti un giovane, una scommessa, scommettiamo tutto assieme, ho meno certezze, ma potrebbe essere, come dicevi tu, una grande scoperta. Mi viene in mente Montella, che sicuramente ha meno esperienza di Ventura, però a quel punto lì è un allenatore giovane, ti può dare qualcosa in più dal, parliamo sempre di giovani, di futuro. Qui siamo andati assolutamente nel passato, e poi quello che è stato smentito, secondo me, era la verità più vera, c'è stata con l'intervento del governo per impedire la nostra nazionale, per impedire questa nomina. La nostra nazionale deve avere anche un volto e deve essere conosciuta. La nazionale ha vinto 4 volte il campionato del mondo. Non lo so, ecco, sì, anche se Enzo, polemiche c'erano state anche 2 anni fa quando Tavecchio aveva scelto Conte per altri motivi. Io trovo che alla fine una federazione ha tutto il diritto e il dovere di percorrere la sua strada e renderne conto quando si arriva al risultato. Nel caso di Conte, sì, ha avuto ragione Tavecchio, nel caso di Ventura tireremo le somme tra un anno, tra 2 anni. Ah, certamente, ripeto, non voglio essere neanche troppo drastico. L'autonomia è sacra. Sì, l'autonomia è sacra, assolutamente, dalla politica allo sport se ne deve ben guardare, però i dubbi che io l'hanno avuto in tanti e credo che siano anche legittimi. Sai, 2 anni fa Conte, forse qualcuno ha detto quello che ha detto, ha pensato quello che ha pensato, perché Conte o lo ami o lo odi, se vuoi è un antipatico per natura, lo dico con simpatia perché Conte è un mio amico, quindi voglio dire, oltre che essere un grande allenatore, questo non lo dico io, lo dice la sua storia. Poteva esserci un problema caratteriale, potevano dire neanche i juventini, hai messo uno juventino vero sulla panchina nazionale, però dal punto di vista professionale era un inattaccabile, ha vinto 3 scudetti, l'allenatore più importante del momento, lo volevano tutti, per pagarlo hai dovuto mettere in campo uno sponsor perché sei andato a prendere un oggetto caro, carissimo, e qui hai dato all'allenatore la più grande possibilità della sua carriera a quasi 70 anni. Forse Tavecchio ha voluto vedere se stesso in questa nomina, perché è arrivato a quell'età sulla panchina più importante della Federcalcio. Ricorderete scivolando su una buccia di banana, sì, appena arrivato. Questo è, mi fermo qui, spero che Ventura abbia un'altra storia, un'altra pill e un altro a livello internazionale. E comunque si parte adesso e poi a settembre già ci saranno le prime risposte. Grazie Enzo. Grazie a te, grazie a voi, a presto a tutti, ciao. Grazie Enzo Bucchioni. C'è il traffico, poi magari dopo il traffico facciamo 2 chiacchiere su chi ha lasciato la panchina a Giampiero Ventura. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Jose Mourinho famously came here the first time to Chelsea and announced himself as a special one. How would you like to be seen on your arrival here at Chelsea? Okay. I'm not very good to find a different name, no, for me. Intanto Conte il primo set se l'è preso all'esame di inglese, l'abbiamo sentito settimana scorsa presentarsi al Chelsea con un inglese che gli inviati hanno definito fluente, e viste altre prove è comunque una buona partenza. Saluto Nicola Roggero, collega che segue da vicinissimo la Premier League. Ciao Nicola. Ciao, buongiorno agli ascoltatori. Beh, già partire con un bel set in lingua non è male, visti i precedenti. Ha dimostrato evidentemente anche un rispetto della stampa locale del posto dove andrà a allenare, è la cosa che ha fatto anche Ancelotti recentemente parlando in un buonissimo tedesco. Io sapevo che Conte stava prendendo da tempo lezioni di inglese, credo addirittura prima di formalizzare un accordo col Chelsea, perché evidentemente sapeva o che sarebbe andato ad andare in Inghilterra o che comunque l'inglese gli sarebbe servito per la sua attività, quindi da questo punto di vista è stato certamente lodevole. Anche Mazzarri ha fatto parlare inglese, voglia di impegno, e tra l'altro Mazzarri probabilmente era più fresco di lezioni, perché ha saputo dopo Conte che sarebbe andato a allenare in Inghilterra. Quindi direi che è un bel modo di presentarsi verso la nuova realtà in cui andranno ad agire. Sì, poi soprattutto c'è la consapevolezza che lo scoglio linguistico è il primo scoglio da abbattere. Specialmente con le squadre di oggi, in cui a parte i giocatori inglesi, comunque ci sono una tale quantità di stranieri per cui l'unica lingua comune, quella più facilmente, con cui più facilmente comunicare, è l'inglese. Quindi penso che al di là del fatto che siano finiti in Premier, è chiaro che c'era la necessità da parte di un allenatore, se vuole allenare a certi livelli, comunque di imparare lingue. Ma è una cosa che di fatto si presenta anche in Italia, perché se noi guardiamo alla rosa perlomeno delle principali squadre italiane, gli italiani sono in minoranza, per cui specialmente per gli stranieri che sono appena arrivati bisogna trovare un modo di comunicare, e questo non può essere che con la lingua che è più parlata al mondo, perlomeno non più parlato al mondo, perché se no dovrebbe essere loro comunicare in cinese, però con la lingua che per tutti è diventata la seconda lingua, cioè l'inglese. Sì, non è detto che prima o poi i cinesi non si prendano anche la prima lingua del calcio, viste le cose come vanno. Si prendono tutto, prima o poi adesso so che vogliono organizzare un altro torneo, non so in che spazi, tra l'altro incastonando tra europei, mondiali, coppe europee e campionati nazionali, di fatto spazio non ce ne sono, però evidentemente in questo momento la forza dei soldi ce l'ha loro, e credo che toccherà adattarsi prima o poi. Work, hai l'impressione che sia entrato dalla porta giusta Conte nel mondo del Chelsea, nel mondo inglese? Ma credo che sia quello, sia l'imprinting della sua filosofia di approccio a questa attività. È uno che pretende molto dei giocatori, è un autentico martello, ha avuto secondo me degli ottimi risultati comunque anche l'ultimo europeo. L'unica perplessità che aveva stata gli stessi governatori inglesi è che il Chelsea veniva da un periodo con Mourinho, una volta è uno che dei giocatori pretende tantissimo a livello prima mentale che fisico, e adesso si ricalano in un altro allenatore che da questo punto di vista è molto simile a Mourinho, quindi le perplessità erano quelle. Però detto questo, nel momento in cui poi uno si fa apprezzare per le sue qualità di lavoro e nel momento in cui arrivassero anche i risultati, penso che il problema verrà superato. Sì, poi prima o poi gli daranno anche un soprannome, magari De Hammer, il martello, visto che altri allenatori al Chelsea si erano presentati dandosi il proprio appellativo, e riferimento ovviamente a Mourinho, mentre Conte questa cosa ha chiesto che siano gli altri a farla, poi chissà, insomma, troverà il modo di farsi amare. Ovviamente Conte è semplicemente l'ultimo della Italian League, perché questo è la Premier della prossima stagione. Ho letto da qualche parte che per i bookmaker alla vigilia dell'inizio della Premier il Leicester di Ranieri l'anno prossimo è più facile che retroceda piuttosto che fare il bis. Non so quale sia la quota, sicuramente che il Leicester faccia il bis è ovviamente complicato pensarlo, però è anche vero che era molto più complicato pensare che l'anno scorso avrebbe vinto il titolo, però non credo neppure retroceda, anche perché comunque il Leicester intanto è riuscito a confermare tanti degli uomini che hanno permesso questo miracolo. Si trova con un bel biglietto da visita per chi si sposerà l'avventura Leicester, che è quello comunque della Champions League, e Leicester è comunque sicuro di fare il girone eliminatorio, e fra l'altro lo farà anche da terzo di serie, avendo vinto il campionato inglese. Retrocedere mi sembra eccessivo, certo sarà molto molto complicato riuscire a confermarsi, anche visto i movimenti che stanno facendo le maggiori squadre sul mercato. Si tornerà dopo la favolosa Disney l'anno scorso, si troverà ragionevolmente con i soliti protagonisti degli ultimi anni. Ecco, il vantaggio della Premier è che a differenza degli altri campionati, quello spagnolo, ancora più quello tedesco e credo anche quello italiano, vista la sorpresa della Juventus, io penso che il vantaggio dell'Inghilterra è che comunque ci sono almeno 4 o 5 squadre che possono tranquillamente avere ambizioni di titolo. Quindi sotto questo punto di vista è l'unica lega che mi pare sia riuscita a copiare in qualche modo dalle grandi leghe americane professionistiche. Ti sorprende qualche difficoltà che sta incontrando Mazzarri? Si legge di allenatori magari un po' perplessi del suo metodo di gestione del ritiro, di qualche dubbio. Ma sai, io credo che sia bello in ogni mestiere che ognuno lo interpreta secondo la sua filosofia. È vero che, per esempio, il segreto di Ranieri l'anno scorso, e non solo l'anno scorso, è stato quello di rispettare molto le usanze dei giocatori inglesi, che poi tra l'altro i giocatori inglesi hanno modo di intendere l'attività sportiva che fatalmente si sposa molto con il piacere, di conseguenza più facilmente viene copiato anche dai giocatori di altre realtà, cioè è un approccio molto più easy, usando il termine proprio inglese, molto meno stressante rispetto a quello di altri campionati, con anche dei limiti, per esempio dal punto di vista alimentare, i giocatori inglesi seguono, diciamo così, la loro cucina, per cui è molto facile trovare della gente che mangia del cioccolato negli spogliatoi prima della partita o dei dolci o cose di questo genere. Ranieri ha sempre molto rispettato, per esempio, questa caratteristica, non a caso un romano. I romani erano soliti, quando andavano a conquistare il mondo, di rispettare le usanze locali a livello di codice, a livello di comportamenti, quindi evidentemente ha tratto lezioni dai suoi avi. Mazzarri ha magari un approccio diverso, ma non credo che l'approccio di Mazzarri, perché è diverso, non debba funzionare. Alla fine dei fatti credo che sia sempre poi i risultati a dire se un metodo è valido oppure no. Beh, uno che aveva un approccio diverso da quello di Ranieri, forse più simile a Mazzarri, atterrato nel pianeta Inghilterra, è stato certamente Capello. Sì, e non è finita benissimo. È vero, però credo che ormai allenare l'Inghilterra sia una delle cose più complicate del mondo, visto i risultati degli ultimi 10 anni. Io penso che se non ci sia riuscito Capello è ben difficile che ci possa riuscire qualcun altro. Però Capello, ecco, dell'inglese aveva un certo integralismo, quindi un amore per esempio per il rispetto delle regole che deve valere per tutti. Questo probabilmente nel nazionale inglese non è recepito, quindi l'idea che tutti debbano essere puntuali a tavola, debbano posare i telefonini, debbano avere un certo comportamento di tipo professionale, evidentemente urta la flessibilità degli inglesi, che possono ottenere dei risultati nel momento in cui si trovano insieme a giocatori che arrivano da altre filosofie, proprio più professionali. Magari sarà meno romantico questo discorso, ma alla fine poi è l'unico discorso che paga. Viceversa, gli inglesi tutti assieme finiscono per combinare evidentemente finiscono per avere ancora quella mentalità che, ripeto, è molto romantica, molto bella, per cui si può appunto mangiare ai loro soprattutto, si può bere e poi tranquillamente andare in campo, provare a giocare la partita comunque finisca. Oggi probabilmente con il livello di professionalità che si è raggiunto nello sport questo non è possibile. Se non c'è riuscito Capello ad imporsi la nazionale inglese, penso che non c'era nessuno. Sì, nemmeno Mazzarri. Però è necessario che poi gli inglesi si adattino, altrimenti andranno sempre incontro alle magre figure che hanno fatto tipo gli ultimi europei. E intanto con la presenza di quattro grandi allenatori italiani, più tanti altri allenatori top che arrivano da fuori e che faranno grandissima la Premier di questa stagione, che sarà davvero uno spettacolo unico, magari lasceranno anche un seme, qualcosa per vedere finalmente tornare un tecnico inglese di altissimo livello, cosa che manca, come la nazionale britannica sa bene, è un altro dei grandi misteri. Però questo è proprio figlio di quanto dicevo prima, evidentemente è una mentalità ormai vecchia, quella per cui si può interpretare le partite, perché ripeto, spirito anche goliardico, gioioso, che è molto bello se vogliamo, però non si può pensare di poter oggi fare un'attività professionale allenandosi un'ora al giorno, comunque divertendosi, ma senza metterci quella serietà che invece occorre, e poi andare a fare bisboccia alla sera nei locali, a bere, a mettersi insomma in condizioni tali per cui il fisico alla fine non può non risentirne, giocare la partita e poi comunque vada la partita, dire vabbè, è andata così, pazienza, voltiamo pagina. È una cosa che non si può più fare, e a mio parere non è sorprendente il fatto che di fatto non ci sono più allenatori britannici in Premier, se non in squadre di basso livello. Se pensiamo che in questo momento il maggior candidato alla panchina dell'inglese è Sam Allardyce, uno che nella sua carriera ha allenato il Sunderland, il Bolton, il West Ham, con tutto rispetto, ma sempre ha allenato squadre che non hanno mai puntato al titolo, è la migliore delle ipotesi a piazzamento a metà classifica, capiamo tutto, ecco, e capiamo perché invece le allenatori italiane hanno così grande successo. Non abbiamo ancora nominato Francesco Guidolin, che l'anno scorso è arrivato allo Swansea, l'ha preso che era quart'ultimo in classifica e l'ha portato addirittura a metà classifica, ottenendo tra l'altro dei risultati molto prestigiosi contro grandi squadre, perché evidentemente c'è un metodo e c'è una serietà che alla fine non può non pagare. Che gli inglesi non hanno. Grazie Nicola. Grazie a voi, saluto a voi. Grazie Nicola Ruggero, La Borsa. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Questa è l'estate in cui sono tornate le grandi rivalità del calciomercato, duelli tra società, spesso nemiche, a volte amiche, finte alleate, un po' come è stato per tanti anni e come forse da un po' di tempo non era. Lo chiediamo a Claudio Pasqualin, decano dei procuratori italiani. Pasqualin, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Sono tornate le grandi rivalità. Pare di sì. Le grandi rivalità peraltro hanno caratterizzato la storia del nostro calciomercato e danno più sale, più sapore, insomma, ecco, al calciomercato stesso. Ma questo è un segno di vitalità? Cioè, è un segno che piano piano stiamo tornando grandi o sono semplicemente cose che ciclicamente succedono? Magari lo fossero, io non vedo segni di vitalità, anzi, nel nostro calcio, anzi, lo vedo sempre più involuto, sempre più critico. E soprattutto rilevo l'assenza di dirigenti che varino riforme, norme adeguate. Insomma, sembra che lo sprofondo nel quale stiamo precipitando interessi poco, insomma, ai nostri dirigenti federali. Cioè, è lontana l'uscita dal tunnel? Mi sembra di sì, purtroppo. Qual è la rivalità che ti incuriosisce di più di quest'estate? Stiamo parlando in tempi di rivalità accesissima tra Juve e Milan. La Juve Napoli, c'è la Juve di mezzo, Napoli, che è un tantissime. Po' un tratto storico. Beh, insomma, le grandi squadre sono queste, insomma, no? quella rivalità di oggi è ovviamente tra Juve e Napoli per Higuain, ma ce ne sono state di rivalità tra Juve e Milan, tra Milan e Inter, chi più ne ha ne metta, insomma, ecco. Ti ricorda qualche cosa di storico, i grandi colpi di cui si è parlato e si parla in questi giorni? Ma il primo pensiero è Baggio, Fiorentina-Juventus, che rappresenta per il calcio italiano ancora una vetta forse non più raggiunta di impatto anche emozionale su una trattativa di calciomercato. Sì, quella peraltro la seguì da tifoso amico di Baggio e quindi poi è quello di Baggio un nome, un'immagine che non poteva non coinvolgere tutte. Altre rivalità, per così dire, le vissi in prima persona proprio da operatore. E se posso dirne una, quella che mi sembra più clamorosa fu quella tra appunto Milan e Juve, che coinvolse il mio assistito Gianluigi Lentini, credo che fosse l'anno del signore 1990. Sì, eravamo all'inizio degli anni 90, Lentini era il tornante più promettente del calcio italiano in uscita dal Torino. Sì, Lentini erano diciamo 80 kg, per il senso che era potente anche, oltre che veloce, 80 kg di fantasia, diciamo, che scavallavano sulla fascia destra e che facevano impazzire e ben sperare tanti operatori, ma tutti i tifosi del calcio italiano, ma tra questi c'era sicuramente anche Fabio Capello, che era letteralmente invaghito del giovanotto Capello, all'epoca allenava il Milan, ma ne era invaghito anche l'avvocato Agnelli e Berlusconi, quindi la guerra, tra virgolette, per l'oggetto comune del desiderio era tra il cavaliere e l'avvocato, cioè tra gli uomini più importanti d'Italia. E fu una trattativa bella dura, Fu una trattativa tosta, complicata, ci furono colpi di scena clamorosi, ci furono elicotteri che partendo da Arcore, arrivando a Torino, portarono ad Arcore qualcuno, c'ero anch'io su quell'elicottero per un paio di volte, e quindi poi le passeggiate col cavaliere nel meraviglioso giardino di Arcore, e poi i colpi di scena, l'atteggiamento del presidente del Torino dell'epoca, che si chiamava Borsano. Se non ricordo male, insomma, ecco. E poi alla fine, a sorpresa, proprio a 10 minuti dalla chiusura del mercato, perché c'era già un contratto preliminare firmato da Bersano e da Galliani, mancava la firma del giocatore, se non fosse stata posta entro le 19 di quel fatidico 30 giugno del 92, quel contratto preliminare non avrebbe avuto efficacia e non sarebbe valso a nulla. Proprio la firma Lentini la appose dopo un rocambolesco viaggio in auto al mio fianco da Torino a Milano, la appose proprio alle 19 meno un minuto, probabilmente arrivò in Lega con un paio di minuti di ritardo sui quali in Lega chiusero un occhio, e arrivò proprio a firmare il contratto del tempo utile. Sì. Ma allora, diversamente da oggi, forse sceglievano meno i giocatori, oggi dipende tutto dai giocatori, poi al di là delle alleanze e delle grandi guerre di mercato tra i club? Sì, il potere decisionale è sempre di più nelle mani dei giocatori, anzi direi quasi nelle mani delle fidanzate, delle mogli dei giocatori. Questo al limite vorrebbe essere una battuta per sottolineare, insomma, come all'epoca la figura di Van Danara era ancora di là da venire, insomma, ecco. Di tanti parenti che oggi fanno i procuratori, non solo Van Danara. Sì, ma tutto grazie alla sciagurata riforma. Prima ho detto sciagurato Blatter, ma è un po' sciagurato anche lui. La sciagurata, sicuramente, la sua riforma, interpretata poi peggio ancora dal nostro Tavecchio, che vorrebbe vedere abolita la figura del procuratore, mentre invece la figura del procuratore è solo colpevolmente dequalificata e, come dire, è svilita, ecco, perché l'accesso generalizzato è possibile a tutti a questa professione un tempo ambita e un tempo qualificata, secondo me non giova all'intero sistema. Nella sua carriera, se dovesse mettere in fila un paio di grandi colpi che sembravano fatti invece sfumati, cosa viene in mente? C'è chi cita Platini Inter, c'è chi parla di Vialli che era un passo dal Milan e poi invece rimase alla Sampdoria. Di Vialli posso parlare autorevolmente, tra virgolette, perché all'epoca fui io a chiudere il suo contratto con il Chelsea. È vero che prima di questa esperienza lui sfiorò chiaramente anche il Milan, poi la decisione peraltro di andare a Chelsea fu tutta completamente sua, anche perché in pratica la Juventus non gli rinnovò il contratto, perché era libero di scegliere dove andare, insomma, ecco. Ma cambi di direzione dell'ultima ora, colpi sfumati, sì, ce ne sono tantissimi. Adesso si fa un po' fatica a ricordarli, però se ci applichiamo un attimo ci riusciamo. Sì, c'è chi ci segnala Signori, che doveva andare al Parma, poi ci fu la rivolta dei tifosi della Lazio, Kakà venduto al Manchester City, ecco, con la retromarcia di Berlusconi, poi in realtà 5 mesi dopo la storia tutti la conoscono, Kakà finì comunque al Real Madrid, oppure ancora le doppie firme di Figo nel 1995 tra Juventus e Parma, insomma tante storie, tanti intrecci di mercato. Noi abbiamo ancora un minuto, io ne approfitto invece per chiedere a Claudio Pasqualin una valutazione che in tanti stanno facendo in questi giorni, in queste settimane, ricordando come la Juve, vendendo i suoi pezzi migliori, fu capace di costruire una nuova squadra, tema che torna d'attualità ora che sul mercato ci sono, ci sarebbero Pogba e Bonucci, io ho l'impressione che i tempi siano cambiati. Oggi anche con in mano magari 100-150 milioni di euro non è facile pensare comunque di ricostruire una squadra competitiva subito, come fece allora Agnelli insieme a Moggi, portando Buffon, Thuram e Nedved. Ma la mia impressione però è che la Juventus ragioni in termini diversi, cioè vuole addirittura spendere. Se è vero come è vero che è impegnatissima sul fronte Higuain, sapendo che l'operazione comporterebbe, sia pur con eventuali scambi tecnici, un esborso di quasi 100 milioni, 94,5 sarebbe la clausola. Sì, però il tema è che oggi è più difficile, mentre negli anni 90, anche vendendo un top come Zidane, i migliori di quel momento in Italia ci volevano venire, oggi diventa complicato, anche magari avendo in tasca i soldi. È giusto, anche perché il nostro campionato è meno attrattivo, anche perché a giocare la Champions sono solo due le squadre, quindi un elemento discriminante è anche quello, la possibilità di partecipare o meno alla Champions, e alla fine insomma il nostro campionato, dove come dire, si percepisce meno che in altri campionati, è meno attrattivo alla faccia di quello che una volta era definito a buon diritto il campionato più bello del mondo, e che oggi invece se la vede con il Portogallo, venendo dopo la Premier, la Liga Spagnola, la Bundesliga e forse anche la Ligue Francese, se la vede con il Portogallo per il quinto posto, insomma. A proposito di risurrezioni, prospettive di rinascita, non se ne vedono in me. Niente luce in fondo al tunnel. Grazie Pasqualin. A voi, buona continuazione. Grazie Claudio Pasqualin. C'è il traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. L'ultima parte di questa ora la dedichiamo all'analisi di che cosa è stata l'estate televisiva per il calcio. Questa è un'estate particolare, in questi giorni cerchiamo di sopravvivere con le prime amichevoli delle squadre del cuore, poi ad agosto ci sarà l'orgia delle Olimpiadi, a giugno e luglio però c'è stato un europeo che, numeri alla mano, è stato un europeo da record. Saluto Antonio Di Pollina, esperto di televisione di Repubblica. Antonio, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. È stato davvero un europeo da record per la televisione. Io ho dato un'occhiata ai numeri e ai comunicati. Rai, che ad esempio ha parlato di 8 milioni e mezzo di ascolto medio tutte le sere per le partite, poi ci sono stati grandi numeri della nazionale, quasi un po' a sorpresa. Sì, nel senso che tirava un po' l'aria di dire la nazionale è scarsa, in fondo sarà in fondo è un europeo, manco un mondiale. E finirà in maniera abbastanza mediocre, anche perché ormai il livello dei valori tra le nazionali e le più forti squadre di club sono quasi imbarazzanti come differenza. Invece si scopre che il marchio della nazionale dei match tra varie nazionali, anche Galles Belgio ha fatto numeri di quel genere, quindi vuol dire che il fascino è rimasto intatto in un torneo che poi ha avuto, nella forte partenza dell'Italia, ha avuto il propellente principale sul pubblico, quindi da quel punto di vista c'è un sacco di gente che si avesse potuto firmare prima per un europeo così, dal punto di vista televisivo e di resa lo avrebbe fatto così e lo avrebbe voluto abbastanza in questo modo. Sì, vuol dire anche che tutti quelli che criticano Platini e questa formula, parliamo di criticano Platini non per altre cose, diciamo, restiamo alla questione della formula dell'europeo a 24 squadre, forse dal punto di vista televisivo e dell'interesse hanno sbagliato. Ma sicuramente aveva visto giusto lui. Sì, sicuramente è una cosa che innesca molto, è un discorso di quantità, magari appunto non di qualità, ma abbiamo già detto che probabilmente il discorso della qualità effettiva di quello che si vede in campo in occasioni di questo genere conta fino a un certo punto, e che invece la quantità, quindi l'ammasso ulteriore di curiosità strane, di Islanda, tanto per intenderci, tutto quello che ha innescato Islanda, magari ci sarebbe andata comunque anche con meno squadre, ma sono venute fuori poi un sacco di cose che per esempio in questo periodo di social attivissimi poi alimentano vieppiù tutto questo traffico dati che va per il mondo, quindi alla fine chi ha in un torneo di questo genere aver puntato anche sulla quantità, visto che la qualità, sulla qualità comunque non potevi scommetterci più di tanto, probabilmente non ha sbagliato dal punto di vista della resa, del consumo da parte nostra, di tutti noi, perché ci metto anch'io, sì, sicuramente. Non possiamo nemmeno non sottolineare come uscivamo da una stagione di dati sul calcio in calo, sia per il campionato di Serie A che per le grandi coppe europee, tema di cui si è discusso molto anche perché è legato ai grandi investimenti che erano stati fatti per i diritti TV, e che gli stessi dati sulla nazionale in realtà negli ultimi mesi erano in netto calo rispetto a quello che era successo ad esempio avvicinandosi ad altre grandi manifestazioni del passato. Sì, c'erano state questa spinta di amichevoli non proprio entusiasmanti, e la fiducia bassa nella squadra medesima, poi hanno cominciato gli infortuni dei due o tre che magari avrebbero potuto illuminarla molto di più, la fiducia era quasi a zero, e prima c'era stato questo calo di cui parli. Dopodiché è assolutamente chiaro che alla prima partita della competizione ufficiale ci si mette comunque tutti lì e si vede come va, e se va bene, come è andata bene in quel caso, non dimentichiamo, ci aspettavamo tutti una disfatta da subito col Belgio, più forte squadra del mondo, cioè prima si dicono, e è un circuito che poi si alimenta esatto, di ottimismo e di voglia di mettersi alla televisione. Sì, ma quindi vuol dire che il pubblico del calcio in Italia è un pubblico televisivamente ancora attivo? Perché qualche dubbio, leggendo i dati delle pay delle ultime due stagioni, stava venendo anche a chi i diritti li tratta. No, quello da quel punto di vista credo che lì invece si voglia anche qualità, e invece si è puntato anche molto sulla quantità. Ci sono, vogliamo dire, il 65% almeno delle partite del campionato italiano di bassissimo conio ormai, e per nulla appetibili se non dalla ristretta fascia di tifosi di appartenenza, probabilmente non sbagliamo più di tanto, quindi da quel punto di vista del discorso del calcio massiccio in pay TV che deve procurare abbonamenti e magari anche aumentarli, non dimentichiamo che c'è stata anche la disfatta di Mediaset Premium con i diritti della Champions League, e hanno dovuto vendere l'azienda, tanto per intenderci, quindi questo significherà pure qualcosa, quindi dal punto di vista del calcio globale da pagare come business complessivo, quello che dura tutto l'anno, i problemi sicuramente ci sono, non ci sono quando dai quantità buona, giusta, qualità come si deve, attesa, crei gli eventi e così via. Quando diciamo il calcio in pay TV ha fatto poco, probabilmente dobbiamo anche provare a immaginare cosa sarebbe un Milan-Juventus che andasse in chiaro su una rete Rai durante il campionato, farebbe ascolti tipo quelli degli europei e senza tema di smentita, direi, da questo punto di vista. È andato male, è andato molto male il discorso Champions, perché era un discorso molto azzardato da parte di Mediaset Premium, e poi non è stato supportato più di tanto dal numero e dalle prestazioni delle squadre italiane. Direi che ogni anno si naviga un po' a vista, e che le tendenze complessive sono sempre un po' difficili da definire, ma in ogni caso che qualunque televisivo tu andassi da qualunque televisivo e gli dicessi che ne diresti di mandare una grande partita di calcio in chiaro, si appende ai muri dalla felicità, perché non c'è niente di paragonabile in giro che possa portare, date le condizioni che abbiamo detto, a quel successo. Sì, cosa che l'anno prossimo tornerà ad essere, perché Mediaset ha annunciato che una partita a settimana di Champions delle italiane tornerà a essere in chiaro. Questo è stato uno dei grandi temi dell'inverno scorso, segno che quegli ascolti servono poi a tutti. Sì, ma assolutamente. L'anno scorso Mediaset ha tentato un azzardo ulteriore di oscurare in pay TV la Juventus fino fino a quando ha potuto farlo, fino a quando non è diventato obbligatorio trasmetterlo, appunto per procurarsi abbonamenti, e non gli ha detto bene. Adesso, se ho ben capito, i preliminari della Roma di Champions andranno in pay anche quelli, quindi ci ritrovano da un certo punto di vista, dopo peraltro aver venduto ai francesi e probabilmente sentendosi anche un po' più le spalle coperte da quel punto di vista. Per chiudere, la web community legata alla nazionale italiana è stata quella che ha tratto i maggiori vantaggi dalle 6 settimane dell'Europeo. Per una volta possiamo gonfiarci il petto d'orgoglio per tutti i patiti dei social, però al di là della battuta, cosa significa? Significa che siamo un paese a cui piace più degli altri, il fenomeno social è sicuramente mondiale, ma da noi c'è un accanimento nel buttarsi sulle discussioni, sui temi di generale interesse, che a me sembra un po' eccessivo, a me sembra anche molto pieno di cose che una volta si dicevano da un bar sport, magari. Forse, siamo sempre più un grandissimo bar sport, ma grande in questo caso. Un commentificio nazionale che sforna prodotti a perdere, poi perché chiaramente danno vaga soddisfazione a chi partecipa e che non produce, e che non incidono minimamente sul PIL, se non di quello della California, temo, e quindi da noi questa tendenza è particolarmente accentuata, e mi sembra più accentuata che altrove. Detto questo, non c'è nulla di male, funziona in quel modo, ma mi chiedo anche quanta gente ormai dei twittanti e altro in diretta sta davvero attento alla partita, e quanta partita si perde, quante fasi della partita si perde mentre cerca la battuta giusta. Cerca la battuta giusta, esatto, o risponde o replica o cerca disperatamente di farsi retweetare da uno importante. Sarà divertente, io non discuto, in generale mi fa un po' impressione, ecco. A me comunque fa impressione in senso positivo, sì, che per una volta noi italiani, che arriviamo sempre dopo, siamo stati quelli che hanno cavalcato di più questa cosa. E poi c'è anche un vantaggio commerciale per federazioni, club, insomma tante cose le abbiamo lette, ad esempio su quanto valgono i tweet delle grandi star del pallone. Quindi per una volta siamo arrivati, se non insieme, insomma prima degli altri. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Di Pollina. Ci fermiamo qui adesso, c'è il GR delle 15, poi apriamo una grande giornata di analisi sugli ammalati dello sport italiano. Tutti convocati. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Tutti convocati. Oggi ci prendiamo un giorno di analisi sui grandi malati italiani, poi parleremo della pallacanestro che non ha ancora rimarginato la ferita della mancata qualificazione a Rio, e cercheremo di capire perché e soprattutto come uscire da questo stato di debolezza del nostro basket. Adesso però ci dedichiamo alla Ferrari, che è uscita con le ossa rotte da Silverstone e soprattutto da un inizio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Uscita con le ossa rotte e leggevo negli ultimi giorni tanti titoli, con la consapevolezza che ci sono non più di 2 settimane per cercare di dare un senso a questa stagione, e si comincia da questa. Sì, perché ci sono i prossimi 2 Gran Premi che potrebbero dare un po' di speranza, soprattutto col prossimo appuntamento in Ungheria, dove l'anno scorso la Ferrari ha vinto, su una pista dove i mali della Ferrari potrebbero essere un po' oscurati dalle caratteristiche del tracciato. Certo, non si aspettava di arrivare a questo punto della stagione con una Ferrari già così dimessa, perché è vero che l'anno scorso la Ferrari aveva vinto 3 gare, però si era presentata all'inizio del mondiale con delle grandi ambizioni, non per analisi dei critici, ma per le parole del suo stesso presidente, che voleva vincere la prima gara. Il peccato originario. Che è il grande peccato, secondo me, di questa stagione Ferrari, l'aver fatto sperare ai tifosi in una stagione in cui si potesse lottare per il titolo mondiale ad armi pari con la Mercedes, cosa che è capitata alla prima gara dell'anno, che poi è svanita per un errore anche strategico, che però poi non abbiamo quasi poi più rivisto, perché la Ferrari ha pagato molto, è veramente migliorata rispetto allo scorso anno, ma il problema è che la Mercedes è migliorata di più. Ma quello che più preoccupa i tifosi, e credo anche lo stesso presidente Marchionne, è il fatto che adesso la Red Bull su certe piste è tornata ad essere superiore alla Ferrari, quindi mentre si sta inseguendo la Mercedes si è fatti riprendere da chi stava dietro, e questo è un peccato ancora più grave, qualcosa che rende ancora più insufficiente la stagione della Ferrari. Sì, ci sono un paio di numeri che fanno riflettere. Il primo è che più o meno quasi a metà stagione la Ferrari ha 22 punti in meno rispetto all'anno scorso, e lasciamo stare che un anno fa aveva vinto 2 gare e si apprestava a vincere la terza a Budapest, come prima hai ricordato. L'altro è proprio il confronto con la Red Bull. Nelle ultime 2 gare la Red Bull ha recuperato oltre 30 punti sulla Ferrari. Segno evidentemente che si può progredire anche nel corso della stagione. E invece al cavallino si è innestato un cortocircuito. Sì, il cavallino purtroppo non è riuscito a migliorare la macchina. Ci sono stati dei passi avanti sul motore, magari, che hanno però compromesso un po' l'affidabilità, perché negli ultimi 2 Gran Premi, ad esempio, Vettel ha perso 5 posizioni in partenza per sostituzioni del cambio, una fragilità del cambio dovuta, ci raccontano, anche se non ufficialmente da Maranello, dai cavalli aggiunti al motore in queste ultime gare, che hanno quindi compromesso la affidabilità del cambio. E la Red Bull dal canto suo invece è migliorata molto, soprattutto dal punto di vista telaistico, perché l'anno scorso il motore Renault, addirittura la Red Bull non lo voleva. Quest'anno è vero, ha cambiato nome, ma il motore è soltanto l'evoluzione di quello, però il passo avanti c'è stato soprattutto dal punto di vista telaistico. Va detto, e questo la Ferrari non l'ha mai accampato come scusa, che James Allison, che è il capo progettista della Ferrari, ha avuto un periodo tremendo dal punto di vista personale, perché mentre rientrava dall'Australia è mancata la moglie, e questo, anche se nessuno l'ha mai ufficialmente detto, io credo che possa essere un motivo di un certo rallentamento nell'evoluzione della Ferrari, perché il capo progettista, l'uomo che aveva in mano le redini del progetto della nuova della Ferrari di quest'anno, ha avuto un problema personale. Sì, anche le grandi storie di imprese sportive poi in realtà sono storie di uomini, e come tali sono... Qui quello che può essere successo nella testa di Allison, insomma, noi non lo possiamo sapere, però è umanamente comprensibile quello che il fatto che lui possa non essere stato concentrato al 1000 per 1000 sul progetto della Ferrari in questo momento. Insomma. Questa è una stagione che può nascondere dietro ogni curva, dietro ogni piega, qualche ribaltone tecnico dentro la Ferrari. Marchionne è uno che va abbastanza per le spicce, come per le spicce ha fatto fuori la vecchia gestione. Io credo che stia cercando soprattutto una guida tecnica per l'anno 21, perché si era convinti che promuovendo quelli che erano i numeri 2 la Ferrari potesse comunque trovare un suo equilibrio tecnico, cosa che nel reparto motoristico mi sembra che sia avvenuta. Però bisogna secondo me cercare degli sforzi tecnici nella progettazione e anche nel reparto dell'aerodinamica, quindi credo che stia lavorando soprattutto su questo, alla caccia di talenti da poter inserire in squadra l'anno 21. Poi resta sempre in bilico, ma perché è così, quando una squadra perde l'allenatore è sempre sotto nel mirino di chi comanda. Il ruolo di Maurizio arriva bene, che però dal mio punto di vedere non è colpevole più di altri, perché lui è soltanto il gestore di uomini e non è lui che progetta la macchina o progetta i motori. Che voto dai a Vettel fin qui? Perché qualche tifoso comincia anche a fare di conto e ad accorgersi che tra problemi, alibi che qualche volta cerca nemmeno di accampare lui stesso, però il rendimento del tedesco, e lo dicono anche i punti in classifica, quest'anno non è straordinario. è un voto sicuramente inferiore a quello dell'anno scorso, secondo me è ancora sufficiente, ma non va oltre il 6-6,5 per qualche gara. Ha fatto delle gare importanti, ma ha fatto anche degli errori che non faceva negli anni scorsi, ha fatto anche degli errori in qualifica. Spesso è stato dietro al suo compagno di squadra, che adesso è anche più avanti in classifica, cosa che non capitava da tempo. È un Vettel che si è fatto un po' trascinare dai problemi della macchina quest'anno. L'anno scorso era stato bravo a trascinare lui la macchina, quest'anno si è fatto un po' trascinare. C'è un segnale di disamore, di pentimento, di disaffezione? È innervosire. Lui, forse anche lui, si aspettava che quest'anno ci potesse essere veramente il salto di qualità. Invece dopo le prime gare forse ha capito che anche quest'anno sarebbe stata un'annata ancora più difficile della passata stagione. Poi sai, quando ti capita che tu perdi 5 posizioni sulla griglia di partenza per 3 volte, soprattutto in Russia avevo ottenuto il secondo tempo, quindi comunque sono cose pesanti poi da digerire per un pilota, perdere 5 posizioni in un colpo per 3 volte in 11 gare. Questo fa perdere un po' di fiducia. Lui ha avuto anche del nervosismo, l'abbiamo sentito via radio, l'abbiamo visto nelle reazioni contro gli avversari. Credo che il peccato grande della Ferrari sia stato non vincere l'unica gara in cui le Mercedes si sono autoeliminate, quella sconfitta di Barcellona, quando Vettel partiva sesto, ma poi la gara andò a Verstappen. Ecco, quella credo che sia il dolore più grande. Avrebbe scaricato anche un po' di pressione. Esatto. Abbiamo 30 secondi. Abbiamo 30 secondi. Cosa dobbiamo ragionevolmente non sperare, ma attenderci da Budapest? Mi attendo una Ferrari più in palla delle ultime due uscite, anche se sarebbe difficile far peggio, visto che in Austria sì, era arrivato sul podio Raikkonen, però poi a Silverstone è stato toccato il fondo, quindi una risalita sicuramente. Se io penso che in caso di un piccolo problema della Mercedes, la Ferrari questa volta possa come minimo puntare al podio e poi sperare in un colpaccio a sorpresa. È la pista in cui si può tentare il colpo a sorpresa ed è veramente una delle ultime occasioni dell'anno, anche se siamo purtroppo soltanto a metà stagione. Sì, per cercare di dare un senso a quest'estate e in generale alla stagione. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie ad Umberto Zappelloni, l'avevamo promesso. E allora adesso invece analizziamo il momento difficile del basket. Delusione, rammarico, sicuramente complimenti a loro che hanno condotto sul risultato emotivamente anche gran parte della partita, quindi grande rammarico ovviamente, grande delusione, tutti volevano andare a Rio, sono andati loro, hanno meritato e niente, purtroppo è un'ennesima estate con la mare in bocca, dispiace perché ovviamente sono sempre di più. Torniamo al basket perché il conto alla rovescia verso le Olimpiadi è arrivato a meno 17 giorni. 17 giorni all'inizio dei giochi di Rio, che Radio 24 racconterà con una programmazione speciale, un palinsesto dedicato proprio alle Olimpiadi, con le corrispondenze anche del nostro Dario Ricci, che sarà a Rio de Janeiro. Giochi di Rio che partono, il tema lo sappiamo ormai, è lì da una decina di giorni, senza la nostra squadra di pallacanestro maschile, una delle grandi delusioni di quest'estate dello sport italiano, delusione che apre anche a mille riflessioni sul perché di questo fallimento, per trovare la diagnosi giusta e se possibile la cura corretta. Saluto Valerio Bianchini, coach. Buongiorno a voi. Buon pomeriggio. Anche a voi. Delusione che fa fatica a passare, anche se sono trascorsi una decina di giorni. Vabbè, assolutamente, perché ci speravamo tanto, anche perché dobbiamo dare atto al presidente Petrucci che ha fatto tutto quello che poteva fare, anche di più, nel senso che ha coinvolto addirittura il governo, nel senso di ottenere dalla FIBA questi nostri preolimpici a Torino in un ambiente formidabile, un palazzo bellissimo eccetera. In più ha preso anche il miglior allenatore possibile, immaginabile, che è Ettore Messina, e quindi da questo punto di vista sembrava che tutto fosse pronto per un successo. In realtà poi quel successo non è arrivato, poteva anche arrivare, perché poi alla fine si è trattato di un canestro in più, un canestro in meno durante la partita regolare, poi dopo nel playoff, scusate, in una spareggio, in una finale, veramente si decide su un singolo episodio. Per una volta il punto di partenza, e io credo che questo sia un bene, è che i perché vadano cercati dentro il campo e non fuori. Lei giustamente ha ricordato lo sforzo immenso che è stato fatto per mettere la nazionale in condizione di arrivare a Rio de Janeiro. E allora perché non siamo andati all'Olimpiade? Al di là che poi una partita di basket si decide su un tiro. Sì, ma non siamo andati alle Olimpiadi perché hanno vinto quegli altri. Cioè, il fatto stesso che noi dovessimo fare un preolimpico è un brutto segno, nel senso che non, da anni non andiamo alle Olimpiadi, da più manifestazioni non andiamo alle Olimpiadi, facciamo anche fatica a dare agli europei. Cioè, c'è uno stato di sofferenza, nonostante abbiamo dei biglietti, dei fiori all'occhiello, tipo appunto i giocatori che vanno a giocare in NBA, e anche delle buone prestazioni delle nostre squadre giovanili in Europa. E c'è questo gap che di cui sta soffrendo la pallacanestro italiana, cioè praticamente noi abbiamo delle eccellenze e poi sotto non c'è una classe medio-alta buona. Ma questa era la miglior nazionale degli ultimi tempi? Dove la collochiamo? Perché tanti hanno parlato di questa generazione maledetta, generazione forse di talenti che abbiamo avuto raramente in passato e che si sta vedendo scivolare via la carriera, almeno a livello azzurro. Sì, perché stanno arrivando al completamento dei loro anni migliori, questo gruppo. Però ci sono anche altri sotto. Perché non si è arrivati? Non si è arrivati, insomma, per tante ragioni. Una delle principali ragioni è stata che c'è stata difficoltà oggettivamente da parte dell'allenatore precedente, ma anche alla fine anche di Messina, di mettere insieme in poco tempo due stili diversi di gioco di basket, quello dei ragazzi che giocano in NBA, che è una pallacanestro completamente diversa, e quello invece dei ragazzi italiani che giocano nel campionato italiano. Ora, non dobbiamo dimenticare che l'ultima grande nazionale che abbiamo avuto con Xavi Recalcati ad Atene, che ha fatto la medaglia d'argento, erano tutti giocatori che erano nati e cresciuti in regime di due stranieri per squadra. Questo significava che ogni squadra italiana aveva un nucleo di giocatori italiani molto importante. So, io ho avuto il Banco di Roma, avevo un sacco di ragazzi romani, Cantù, c'erano i Mazzorati, Barriere, eccetera. Milano storicamente è stata una base importante per la nazionale. C'era un nucleo fortissimo. Oggi invece non è così, anche l'Armani è una multinazionale. Oggi non è così per due ragioni. La prima è che con la globalizzazione abbiamo cominciato a prendere troppi stranieri rispetto al numero di italiani presenti. Ci sono delle partite in cui non c'è neanche un italiano nei due quintetti iniziali. In secondo luogo, perché la crisi economica ha ridotto anche la possibilità di prendere giocatori di grande livello, quindi abbiamo una massa di stranieri che è piuttosto scadente, diciamo, a parte qualche eccellenza. C'è un altro fattore ancora, che ovviamente, avendo tutti questi stranieri e non avendo un nucleo di italiani costante, a parte un paio di squadre, e cito subito Reggio Emilia e Trento, che tra l'altro hanno fatto benissimo, a parte queste società che hanno promosso un nucleo di italiani giovani che sono cresciuti con loro, le altre vedono un andare e vieni di giocatori stranieri che non si fermano mai nel medesimo campionato, perché nella medesima squadra, perché naturalmente fanno un buon campionato e subito le loro pretese si alzano, perciò entrano squadre. Sì, siamo diventati un campionato di passaggio. Ma c'è anche il tema che i nostri devono avere il coraggio di uscire per trovare quei minuti che qui non trovano, anche all'estero, anche in campionati magari minori, più scomodi. Senz'altro, c'è una generazione che si sta accontentando di stare in panchina. Questo giustamente dice Tanis, piuttosto che fare 3 minuti per partita, è meglio farne 20 in una squadra anche inferiore, però anche all'estero. Questo è vero, però devono esserci le occasioni per farlo. Poi io penso che invece bisogna tornare a lavorare, a pensare, a immaginare, a strutturare un sistema italiano che porti i nostri ragazzi alla maturazione, perché il paradosso è questo: le nostre nazionali giovanili, gli under 18, under 19, 20 eccetera, sono sempre, primeggiano sempre in Europa. Poi misteriosamente questi giocatori scompaiono e sono pochissimi quelli che arrivano a, a giocare in Serie A. Le ragioni sono, consistono nel fatto che la loro maturazione non è ancora terminata, ha bisogno di altri anni di formazione. Prendo un esempio classico, no? Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti i ragazzi escono dal liceo, dall'high school, e poi hanno 4 anni di college. Qualcuno, qualche fenomeno va nell'NBA subito, però sono rarissimi. Da noi manca il passaggio di mezzo. Non solo, finito il college, molti che vengono scelti dai professionisti, poi fanno anche il campionato di sviluppo, non fanno subito l'NBA, fanno il campionato di sviluppo, cioè ci vuole una gradualità per introdurre questi ragazzi nel mondo del professionismo. Da noi cosa succede? Finisce a 18-20 anni, finiscono i campionati giovanili, vengono buttati in questo mare magnum che è questo finto dilettantismo, in cui le squadre sono concatenate con la promozione e retrocessione, gli allenatori sono costretti a far giocare quelli che gli fanno vincere le partite. Ed è impossibile investire su un giovane. Esatto. Bianchini, io ho un paio di minuti, ho ancora due domande da fare. La prima è questa: nelle ultime due stagioni in Eurolega i club italiani non sono mai andati sopra il 30% di vittorie. È la fotografia esatta di quanto vale oggi il nostro basket, il nostro campionato, al di là di quelli che poi sono emigrati negli Stati Uniti? Sì, purtroppo sì, la verità è questa, perché intanto perché non produciamo abbastanza giocatori, e su questo dobbiamo riflettere, la federazione deve riflettere, bisogna cambiare il sistema per poter avere più giocatori a disposizione per la nazionale e per il campionato professionistico. E la seconda cosa è che naturalmente qui di grandi sponsor c'è soltanto, di grandi proprietari c'è soltanto Armani, e anche Armani ha fatto fatica ad essere valido in Euroleague, e gli altri hanno molto meno soldi rispetto alle squadre, ai turchi, ai greci, agli spagnoli. E poi non dimentichiamo l'altro fatto, che se pensiamo agli spagnoli, pensiamo ai greci, penso alle squadre, al Real Madrid, al Barcellona, a me vengono in mente i nomi di giocatori spagnoli, poi in un secondo momento penso ai loro stranieri. Sì, cosa che invece noi abbiamo completamente perso. E noi completamente. Questo fatto non ce l'abbiamo. L'ultima riflessione è questa: 2017 anno di europei, è l'ultima chiamata per questa generazione in azzurro? Ma io penso che alcuni di loro possano aspirare anche alle prossime Olimpiadi, su questo non c'è dubbio, dal punto di vista dell'età, dal punto di vista delle cose. Lei ripartirebbe da Messina o serve un CT a tempo pieno? Dunque, il problema di Messina è che essendo così impegnato in un campionato che ha tutte quelle partite, in una squadra che sicuramente cercherà sempre di fare i playoff e quindi di essere ha poco tempo da dedicare al bas. Secondo me è stato giustissimo tentare questo blitz con Messina adesso, cercando di ottenere il massimo in pochissimo tempo, come ha cercato di fare. Adesso però è meglio tornare a una formula tradizionale. Io credo che l'allenatore nazionale debba, io sono convinto che debba anche allenare durante il campionato, proprio per essere pronto a tutte le evoluzioni e variazioni che ci sono nel corso di un campionato di tecnica, di psicologia eccetera. In più deve conoscere i giocatori italiani, deve conoscerli, deve seguirli, cioè farlo soltanto attraverso il filmato o la televisione non mi sembra. Può essere un limite se si deve preparare qualcosa più di un preolimpico. Grazie a Valerio Bianchini. Prego. Grazie Valerio Bianchini, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Tutti convocati, torna domani dopo il GR delle 14. Ciao.